perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Giornata di riunioni e contatti per il sindaco di Roma è attesa per le decisioni sull'assessore Muraro, che era indagata da fine aprile. Pizzarotti chiede le dimissioni del cosiddetto direttorio. Operazione contro gli anarchici in tutta Italia, 7 arresti e decine di perquisizioni. Le accuse sono per le bombe sotto casa di Prodi e Cofferati e al quotidiano La Stampa. Il caos attacca a Roma, ieri soppresse centinaia di corse, verranno riprogrammate sulla base dell'effettiva disponibilità dei mezzi. Polemiche sulla scarsa informazione ai cittadini. Terremoto, si apre la discussione sul cosiddetto piano Casa Italia, sarà un lavoro decennale, dice Renzi, no a battaglie politiche. Oggi andremo a Camerino, dove ci sono 300 sfollati. Migranti e comuni lavorano sul piano per l'accoglienza diffusa, intanto a Como tensioni davanti alla stazione, dove si raccolgono quelli che vogliono passare il confine e andare in Svizzera. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere, e poi il nostro canale Telegram, nel quale vi diamo ogni giorno qualche anticipazione sulla trasmissione, il canale telegram.me/effettogiorno. Iniziamo dunque dall'operazione contro gli anarchici in tutta Italia di questa mattina. Secondo gli inquirenti, in 13 anni di attività avrebbero compiuto almeno una cinquantina di azioni di natura terroristico-eversiva. Tra queste figurano anche i plichi bomba inviati a Romano Prodi e Sergio Cofferati. Sono 7 gli anarchici finiti in manette nell'operazione scattata stamattina in diverse regioni italiane. Altri 8 sono indagati. Appartengono tutti alla Federazione Anarchica Informale e nei loro confronti l'accusa è quella di associazione finalizzata al terrorismo. La base del gruppo era a Torino, città dalla quale sono partite le indagini della Digos, una trentina le abitazioni perquisite in tutta Italia. L'inchiesta aveva preso il via dagli attentati alla scuola Allievi Carabinieri di Fossano del giugno 2006 e da quello nel quartiere Crocetta di Torino del marzo 2007. In entrambi i casi le esplosioni di alcuni ordigni avevano causato danni ma nessuna vittima. Per gli investigatori però quelle azioni avevano il preciso obiettivo di uccidere uomini delle forze dell'ordine ma anche personale sanitario e dei vigili del fuoco. Tra gli arrestati ci sono anche Alfredo Cospito e Nicola Gai, già condannati per l'attentato all'amministratore delegato dell'Ansaldo Roberto Adinolfi, gambizzato nel maggio 2012. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E andiamo alla situazione della giunta della capitale. Il Movimento 5 Stelle continua ad essere attraversato da tensioni, ha parlato anche il sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Elisabetta Fiorito per un punto generale. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora, passa l'attacco Federico Pizzarotti, l'outsider del Movimento 5 Stelle, sospeso dopo un'indagine per le nomine al Teatro Regio. Il sindaco di Parma chiede le dimissioni in massa di tutto il direttorio. Nei 2 anni di questa gestione, dice Pizzarotti, sono stati scaricati 2 sindaci a Gela e a Quarto, un terzo è stato sospeso, c'è il caos a Roma con un rimpallo di accuse. Tutto questo causato da una grave mancanza di regole chiare. Ho sempre palesato, continua Pizzarotti, che le correnti esistono anche nel movimento e devono essere messe alla luce per evitare di rimanerne schiacciati. Nel frattempo Virginia Raggi è in Campidoglio, la sindaca vedrà assessori e consiglieri del Movimento 5 Stelle in 2 riunioni separate, intanto il direttorio si divide. Per Alessandro Di Battista è un attacco mediatico contro le Olimpiadi, mentre Carla Ruocco si distacca da quanto detto dalla sindaca Raggi e nega di aver mai avuto notizie sull'inchiesta riguardo all'assessora Paola Mugliani. Ma dal blog di Beppe Grillo sale la protesta della base contro Raggi e contro il direttorio. Per il momento qui da Roma è tutto, a te Simone. E grazie Elisabetta Fiorito, e a questa vicenda è dedicata l'analisi del martedì di Daniele Biacchessi. Lotta alla corruzione, alle mafie e alle illegalità. Con queste politiche il Movimento 5 Stelle si è trasformato negli ultimi anni da movimento di opposizione a partito politico organizzato, strutturato nel territorio, che aspira a governare il paese, passando dall'amministrazione delle città. Nella loro ascesa sul piano del consenso, il giustizialismo, la guerra alle caste hanno giocato un ruolo predominante. I pentastellati sono oggi alla guida di Parma, Livorno e Roma, in seguito alle inchieste che in passato avevano coinvolto sindaci e politici di centro-sinistra e centrodestra in quelle città, ed è proprio la stessa smania di giustizialismo che li sta colpendo a Roma. Qui ci sono due criminali di destra e di sinistra, Massimo Carminati, Salvatore Buzzi, che si spartiscono il bottino della capitale. C'è un sindaco di centrodestra, Gianni Alemanno, immischiato nell'inchiesta su Mafia Capitale. C'è un altro sindaco del PD, ma inviso dal suo stesso partito, Ignazio Marino, costretto ad abbandonare il Campidoglio per una storia di rimborsi fasulli. Qui c'è un elettorato che non ne può più e decide di cambiare votando Virginia Raggi. E ora c'è un'amministratrice di Roma che dice di aver informato il direttorio del 5 Stelle delle indagini sul suo assessore Muraro, ma il direttorio dice di non sapere nulla. E c'è un assessore che per 50 giorni nasconde l'inchiesta a suo carico. Infine c'è un elettorato confuso, sbigottito. In soli 3 mesi il 5 Stelle vede così naufragare il sogno di cambiamento colpito proprio dal suo stesso giustizialismo. E questo il quadro da Roma, Roma sulla quale torneremo più avanti nel nostro giro per l'Italia, per affrontare non però la situazione della giunta, ma quello che è successo con l'ATAC, che ha soppresso una serie di corse mandando nel caos soprattutto i pendolari. Ci torneremo più avanti, come si diceva. Intanto andiamo al dopo terremoto, perché si lavora sul piano per la messa in sicurezza del paese. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Istituzioni, organizzazioni professionali, parti sociali ed associazioni ambientaliste, una lunga serie di incontri qui a Palazzo Chigi, da dove vi parlo, iniziati alle 10 che andranno avanti fino alle 15 per condividere ed elaborare una serie di linee comuni per il cosiddetto progetto Casa Italia. Un progetto, hanno spiegato più volte dal governo, che prende sì spunto dal terribile sisma del 24 agosto, ma che vuole guardare non solo all'emergenza ma soprattutto a lungo termine. Dobbiamo immaginare una scommessa non per i prossimi mesi ma per i prossimi anni, ha detto allora il Presidente del Consiglio Renzi, un lavoro che non deve dare risultati domani mattina ma che rappresenti un'opera di vera prevenzione e serietà. Siamo qui per chiedervi di partecipare con le vostre valutazioni, ruolo e contributo tecnico, ha aggiunto il Premier, per un lavoro che io credo debba andare avanti almeno per un decennio senza che su questo si giochi alcuna battaglia politica. Linea questa, Simone, apprezzata dall'Associazione dei Comuni. Condividiamo, ha detto Fassino, la approccio del governo che punta a rendere organici gli interventi di qualificazione, modernizzazione e sistemazione dell'assetto del territorio. E per il momento da Palazzo Chigi è tutto, linea allo studio. Ti ringrazio, grazie dunque a Vincenzo Miglietta. Alcuni dati in arrivo dall'Europa. Italia, Francia e Finlandia sono gli unici paesi europei con la crescita ferma nel secondo trimestre del 2016, sotto la media europea, che è comunque di uno striminzito più 0,4%, anche l'Austria con un più 0,1%, Grecia e Lituania con un più 0,2%, mentre vanno bene i paesi dell'est, Romania più 1,5%, Ungheria più 1%, Slovacchia, Polonia e Repubblica Ceca più 0,9%, bene anche la Spagna più 0,8%. C'è stato l'annuncio di Renzi, ormai lo sapete, ne abbiamo parlato anche questa mattina, via le slot machine da bar, tabacchi ed edicole. Per gli esercenti sarebbe un problema. E in arrivo una stretta sul gioco d'azzardo. Niente slot machine nei bar e nelle tabaccherie, lo ha annunciato il presidente del Consiglio Matteo Renzi in un'intervista al settimanale Vita No Profit in uscita il 9 settembre e ha aggiunto: non aumenteremo il costo della benzina, né allargheremo le maglie sul gioco d'azzardo e sulle slot per finanziare la ricostruzione post-sisma. Tra le novità, la riduzione di almeno il 30% delle AVP in circolazione, così si chiamano le nuove slot, eliminazione delle slot invece in esercizi come ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, rifugi alpini ed edicole. Ma, come sottolinea il segretario generale della Confesercenti Mauro Bussoni, sarebbe però un dramma per gli imprenditori. La raccolta nel gioco è di circa 88 miliardi, frutta allo Stato circa 10 miliardi, sono interessati a questo 83.000 esercizi, tabaccherie, pubblici esercizi, significa che comunque sparirebbe l'80% di questo mercato. I drammatici numeri però delle ludopatie arrivano sul tavolo di molti sindaci ed enti locali ogni giorno. Il prossimo step sarà un accordo tra Stato ed enti locali, ma è imminente la scadenza delle gare e delle scommesse. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo il quadro appunto sul fronte delle slot e a proposito, se vogliamo, anche di conti pubblici, il sistema sanitario si prepara ad assumere 3.000 medici. Possibile nuova ondata di assunzioni nella pubblica amministrazione. Sembrano infatti confermati i piani del ministro della Salute Lorenzin per l'immissione di nuovi medici. Dal ministero si cerca un meccanismo che permetta in 2 o 3 anni di stabilizzare i precari, di sbloccare il turnover e far tornare il sistema sanitario normale. I primi conteggi prevedono l'ingresso di circa 3.000 nuovi medici. Già nella legge di stabilità nel 2016, per cercare di tamponare un problema urgente, si erano previste assunzioni per coprire i primi 10 mesi con contratti a tempo determinato. Ora, entro il 30 settembre, le regioni dovranno terminare l'analisi dei reali fabbisogni del sistema sanitario. Le regioni puntano ad aumentare di 2 miliardi il plafond iniziali per aggiungerli ai soldi ottenuti con l'introduzione del patto per la salute e ai risparmi conseguiti con l'avvio delle centrali d'acquisto unificate. Sul piano organizzativo, dal ministro Madia arrivano delle novità che saranno contenute nel testo unico della pubblica amministrazione previsto per il gennaio prossimo. Esclusa la cancellazione dei tetti sempre più rigidi, le nuove assunzioni non saranno decise secondo le piante organiche, ma solo secondo i reali fabbisogni delle amministrazioni. Infine, cambiano anche i concorsoni, che potranno essere sia locali sia nazionali, con scadenza biennale, che avranno tempi ridotti per le procedure da 5 a 6 mesi. Leonardo Rossi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tra l'altro, a proposito di medici, sono in corso in queste ore i test per l'accesso alle facoltà di medicina. Sono coinvolti migliaia di studenti. Nel corso della giornata naturalmente vi aggiorneremo e vi faremo anche sentire evidentemente le voci dei ragazzi che si sono sottoposti al test per poter entrare nelle facoltà di medicina. Veniamo alla questione dei migranti, la toccheremo anche più avanti nel nostro giro per l'Italia. Andremo a Como, dove davanti alla situazione è decisamente difficile, ma intanto c'è una questione generale, quella di come strutturare l'accoglienza. Ebbene, oggi ci sarà una riunione a Lanci dedicata proprio a questo tra i comuni italiani. Sentiamo. Il ministro dell'Interno Alfano chiede la collaborazione dell'ANCI, quindi dei comuni, nell'equa distribuzione dei migranti. Gli sbarchi, spiegano al Viminale, sono in linea con l'anno scorso, ma poiché i nuovi arrivati si vanno ad aggiungere a quelli già sul territorio, ci sono delle criticità nel sistema di accoglienza nazionale, che stando ai dati aggiornati a oggi gestisce 147.987 presenze, più del doppio di 2 anni fa. I sindaci hanno risposto ieri con un fermo no a piani di ripartizione dei migranti calati dall'alto. Il piano immaginato dall'ANCI prevede di distribuire in media nei vari comuni 2,5 persone ogni 1.000 abitanti, con alcune correzioni verso il basso per le grandi città e i piccoli centri. Ma chiederanno al Viminale anche una clausola di garanzia. Ai comuni che hanno già progetti di accoglienza in corso non possono essere destinate altre persone. Intanto resta alta l'emergenza in alcuni comuni, fra i quali Como, dove nel giardino davanti alla stazione centrale di San Giovanni sono attualmente accampate un centinaio di persone, per lo più eritree. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come si diceva, ci torneremo più avanti, lo faremo col direttore della Caritas di Como, Roberto Bernasconi. Intanto però c'è chi sfrutta tutto questo e lo sappiamo. A 21 persone è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare perché trasportavano migranti in auto oltre confine. Il reato contestato è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ci racconta i dettagli il capo del Servizio Centrale Operativo della Polizia, Renato Cortese, sempre Valentina Furlanetto, lo ha intervistato. Sono 21 misure cautelari, gran parte di queste ovviamente notificate qua in Italia, alcune anche all'estero, e sono state anche adottate dei mandati di arresti europeo. Questo network criminale ha gestito l'ingresso di un flusso notevolissimo di siriani che attraverso l'Ungheria trovava destinazione nei paesi dell'Europa, soprattutto la Germania. Quanti siriani pensate che possano essere stati trasportati da questa organizzazione? Centinaia di migranti. Ci sono degli italiani coinvolti? Non tra quelli colpiti da misure cautelari, ma c'è qualche posizione che è un punto al vaglio, appunto, delle attività investigative. Quanto pagavano queste persone, questi migranti siriani, per attraversare illegalmente i confini? 500-1000 euro a testa. Anche come giro d'affari parliamo di una cifra consistente. Assolutamente una cifra consistente, ed è questo anche l'oggetto delle successive attività investigative, capire questi soldi in quali canali finanziari e che fine facessero. Prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, c'è il nostro appuntamento con la Mostra del Cinema di Venezia e con la nostra inviata Marta Cagnola. Marta, ciao, cosa ci racconti oggi? Sperando che il collegamento regga, Marta, eccoci. Simone, sì, come sempre partiamo con la mattinata. Oggi in concorso The Bad Batch per la regia di Anna Lilia Mirpur, Ci sono star internazionali come Keanu Reeves, Jim Carrey, Giovanni Ribisi, ma sono praticamente irriconoscibili. Il film è un romantico horror, splatter post-apocalittico, troppo lungo, però peccato perché chi ha stomaco forte e non ha soprattutto paura dei cannibali può trovare degli spunti di divertimento. Ieri sera abbiamo visto invece Une vie di Stéphane Brisé, un po' logorante, ma dopo tutto ispirato al romanzo di Guy de Maupassant, quindi lutti, lacrime, eccetera. In attesa invece questa sera di Terrence Malick, Può riservarci di tutto. Per gli italiani invece fuori concorso il film Tommaso di Kim Rossi Stewart, che qui è presidente della giuria del premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis. È la storia di un attore affascinante ma disastroso in amore, sulle orme, ovviamente facciamo le dovute differenze, di Nanni Moretti e di Woody Allen. E poco fa abbiamo incontrato proprio Kim Rossi Stewart. Io non so se è una commedia, non so, è un film forse non facilmente etichettabile. Se anche Libero va bene, era un film su un nodo allo stomaco, cioè sulle emozioni. Questo è un film sulla mente, è un film che scandaglia la mente di un personaggio e a sua volta è un film costruito da un autore che è interessato a scandagliare la mente, e l'ironia secondo me nasce da, è proprio un frutto specifico della mente. Se vi ha incuriosito questo Tommaso di Kim Rossi Stewart, esce dopodomani al cinema 8 settembre. Da Venezia è tutto. E grazie a Marta Cagnola dunque, nostra inviata a Venezia. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico, ci ritroviamo subito dopo per il nostro consueto giro per l'Italia. Giro per l'Italia che ci porterà però innanzitutto a Roma, da dove abbiamo iniziato questa edizione di Effetto Giorno, non per parlare della situazione della giunta, ma per parlare dell'ATAC. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dei problemi della giunta di Roma, abbiamo parlato dell'operazione contro gli anarchici in tutta Italia, ci siamo occupati di Casa Italia, che è questo progetto a lungo termine del governo sul quale si sta confrontando con le parti sociali per ridare ordine, per così dire, al territorio italiano dal punto di vista tanto del rischio sismico quanto di quello del rischio idrogeologico. Ci siamo occupati dell'idea di eliminare slot da tabaccai e bar. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e però, come si diceva, ricominciamo da Roma per parlare non tanto della giunta ma di quello che sta succedendo all'ATAC, perché la giornata di ieri dei romani, soprattutto i pendolari, è stata decisamente pesante. Lorenzo De Cicco è un giornalista del Messaggero e spesso ci accompagna quando parliamo della gloriosa azienda di trasporti romana. Lorenzo, bentornato, buongiorno, ciao. Certo, sicuramente ieri non l'avrebbero definita proprio in questi termini. No, direi proprio che si sono ritrovati. Direi decisamente veloce, ma ci sono state attese fino a 80-90 minuti, delle cose incredibili, no? Sì, perché l'assessore Meleo della Giunta Raggi ha definita un'operazione verità. Di fatto sono state cancellate veramente centinaia e centinaia di linee. Ieri noi del Messaggero le abbiamo contate, erano 2738, quindi oltre il 2738 soppressioni, Corse soppresse. Corse soppresse, sì. 2738 corse soppresse, ok. Abbiamo contato una per una e vedendo proprio le tabelle che forniva anche l'ATAC si capiva che c'erano intervalli di tempo difficilmente conciliabili con la narrazione di un rimodellamento delle linee in funzione del servizio o pensato comunque per andare incontro alle esigenze dell'utenza, anche nell'ottica ragionevole di non dire bugie, perché è vero in passato è successo InfoAtac, che è l'account Twitter della municipalizzata di Roma, spesso ha fornito in passato informazioni diciamo non proprio precisissime e molti utenti a volte si sono giustamente innervositi perché si sono sentiti presi in giro. Detto questo, vedendo queste tabelle fornite da ATAC si vedevano appunto, come dicevi anche tu, intervalli di tempo macroscopici e a volte stando accanto alle paline dei tram o delle fermate dei bus, si aspettava anche molto di più. La sensazione, vedendo diciamo il quadro d'insieme, è che si sia tagliato con l'accetta da un giorno all'altro e allora, che non ci sia stata una programmazione ragionata. Allora, ascolta Lorenzo, in realtà l'obiettivo dell'assessore è buono, perché lei dice, allora, in realtà ci sono delle corse che normalmente non vengono fatte perché i mezzi sono messi male e vanno rimessi in sesto, no? E quindi togliamo l'infingimento, togliamo la finta che queste corse ci siano ed eliminiamole direttamente. Mi sembra di aver capito che il ragionamento dell'assessore sia questo sostanzialmente. Sì, no, ma come ho detto è ovvio che il principio di partenza è assolutamente giusto e visto appunto il Movimento 5 Stelle parla sempre di onestà, fare un po' di chiarezza ed essere onesti con i pendolari che comunque pagano un bel abbonamento o un biglietto è sicuramente positivo. Detto questo, la situazione è enormemente peggiorata, consideriamo che da appunto l'altro ieri è tornato in vigore l'orario diciamo invernale, quindi con molte più corse previste rispetto al mese di agosto e rispetto anche a un anno fa la situazione è molto peggiorata, cioè di corse ce ne sono molte di meno, perché lo abbiamo provato un po' a raccontare, da fine luglio sostanzialmente ATAC non paga più i fornitori, quindi mancano i pezzi di ricambi banalmente, insomma non ci vuole un mago per capirlo. ATAC ha un'esposizione di 1,3 miliardi di euro tra banche e fornitori e ovviamente le imprese non sono più disposte a inviare i pezzi di ricambio a gratis senza la certezza, certo, che poi le fatture vengano saldate. Ovvio, tra i racconti scusami, ce ne arriva uno di un ascoltatore via WhatsApp che dice in via Nazionale in una fermata, qua non si legge bene, ha fatto meglio, ha tolto direttamente la tabella informativa luminosa, così senza l'app e senza la tabella informativa nessuno sapeva quando sarebbe passato l'autobus. Ascolta una cosa Lorenzo, quello che voglio capire anche per aiutare gli ascoltatori romani che ci stanno ascoltando, ma tutto questo quando dovrebbe arrivare a una conclusione? Cioè io immagino che a un certo punto una serie di corse debbano essere ripristinate. Si ha un'idea dei tempi o anche su questo c'è stata un po' di scarsa informazione anche dall'azienda? Il problema è che nessuno può dare al momento informazioni certe, perché l'azienda non ha una guida, nella cabina di guida al volante non c'è nessuno, per usare una metafora appunto da autoferro tranvieri, nel senso che l'amministratore unico e il direttore generale Rettighieri, che erano stati nominati da Tronca, Rettighieri peraltro aveva vinto un bando pubblico, sono entrati in contrasto con la giunta Raggi e si sono dovuti dimettere perché non gli davano i fondi, oppure gli erano dati in ritardo, perché l'assessore Meleo voleva avere una visione preventiva di tutte le nomine interne, insomma ci sono state una serie di frizioni che sono montate da Ferragosto in poi fino alle loro dimissioni. Il nuovo amministratore unico, questo Manuel Fantasia, un ingegnere che è stato scelto dalla Raggi e dal suo assessore, ancora non è ufficialmente entrato in carica perché l'assemblea dei soci, da quello che ho capito, dovrebbe esserci domenica l'11 settembre e quindi di fatto al momento nessuno può dire quando, e non è una situazione comunque facilmente risolvibile in poche settimane, perché c'è bisogno di una strategia. Certo. Quella che avevano elaborato i vertici, che ormai si sono dimessi, era quella di vendere una serie di immobili non strumentali del patrimonio di ATAC, che è immenso, avrebbero fatto cassa con 160 milioni di euro, secondo alcune stime che erano state inviate anche alla Raggi. La giunta del Movimento 5 Stelle legittimamente ha detto che questa secondo loro non era la via per risolvere, che non volevano avviare nessun tipo di alienazione. Ora però quei soldi vanno trovati, perché se no è un cane che si morde la coda e non si riescono a pagare le imprese e i pezzi di ricambio non arrivano e gli operai autobus, delle officine e gli autobus restano fermi. Certo, esatto. Gli autobus restano fermi. Io ti ringrazio, grazie Lorenzo De Cicco, giornalista del Messaggero, che spesso ci accompagna quando parliamo di cose di ATAC. E nel nostro giro per l'Italia adesso tocchiamo Como. Saluto Roberto Bernasconi, che è il direttore della Caritas di Como appunto. Buongiorno Bernasconi, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, il tema è ancora una volta quello dell'accoglienza dei migranti. In una giornata nella quale, tra l'altro, ci si riunisce e si discute proprio per una distribuzione come dire, più diffusa sul territorio dei migranti da accogliere, Como vive una situazione particolare. La situazione particolare deriva dal fatto che alla stazione, davanti alla stazione, si raccolgono delle persone, dei migranti, che vogliono passare il confine con la Svizzera. Ovviamente non ci riescono, tornano indietro e ritornano a Como. A che punto siamo? Quante persone ci sono, Bernasconi, al momento davanti alla stazione? Ma le do un dato di mezz'ora fa. Oggi abbiamo distribuito ancora 350 pasti all'incirca. Quindi sono dai 350 alle 400 persone che vivono nel prato davanti alla stazione. Una vera e propria tendopoli, no? Mi sembra aver capito. Sì, oramai è diventata una vera e propria tendopoli, perché poi tutti ci hanno messo del loro, compreso alcuni gruppi un po' dissidenti svizzeri che arrivano in Italia e quindi ci mettono del loro davvero a complicare le cose. In che modo le complicano, Bernasconi? Le complicano dando delle false speranze a questi ragazzi, a questi uomini, a queste donne, e addirittura un paio di settimane fa avevano detto che per due giorni la Svizzera avrebbe aperto le frontiere, quindi si può immaginare cosa è successo. E queste persone invece hanno bisogno di certezze nell'incertezza, sanno che non possono passare di là così e devono capire cosa è meglio per loro, quindi c'è bisogno di una grossa mediazione culturale e bisogna far capire loro, almeno quelli che sono usciti dai casi, dai centri di accoglienza, che forse la strada è quella di ritentare questo tipo di cammino. La maggioranza di loro sono del Corno d'Africa e quindi hanno poi il diritto anche ad avere un permesso per rimanere in Italia. E nel frattempo potranno imparare un po' la lingua, potranno imparare alcune altre cose, tipo qualche lavoro, eccetera, che gli permettono poi di rimanere sul nostro territorio o anche nel resto degli stati dell'Europa, con una possibilità anche lavorativa. Mi sembra che adesso non c'è. Mi sembra di aver capito, Bernasconi, che su questo fronte un po' di tensione stia salendo, a partire ovviamente da quello che ci diceva lei, cioè persone che magari stanno là e insufflano, per così dire, no? Questa stessa tensione. E dall'altra parte il fatto che può essere anche comprensibile per i cittadini di Como, perché saranno rifugiati persone con il diritto, appunto, al permesso a rimanere in Italia. Fatto sta che in una città relativamente piccola come Como ti trovi davanti alla stazione una tendopoli con 300 persone. Insomma, non è immediata come cosa, no? No, aspetti, poi oltretutto Como come città sta accogliendo, una città di 80.000 abitanti, sta già accogliendo nei casi di accoglienza altre 700 persone. Questo può sembrare che la città scoppi anche a livello così di protesta. La realtà invece di questi due mesi estivi ci ha fatto vedere invece una grande solidarietà da parte della città. Noi siamo riusciti a contenere questa fatica perché almeno 700 persone a livello volontaristico si stanno impegnando nei vari servizi che Caritas ed altre Croce Rossa ed altre associazioni ha messo su per poter rendere questa presenza delle persone sul prato davanti alla stazione meno devastante possibile per loro innanzitutto. Quindi abbiamo dovuto organizzare le docce, le cucine, le mense, la parte sanitaria, eccetera. Sì. È stato un lavoro. Insisto però, Bernasconi, che a lungo questa situazione a lungo termine non è sostenibile, insomma, cioè già sta diventando pesante negli ultimi mesi. Poi già con lei abbiamo parlato anche col sindaco, sì. No? Sì, appunto, ed è per quello che tra una settimana uscirà a partire questo il campo che è organizzato un po' dalla prefettura e che potrà accogliere fino a 400 persone. Per cui in un luogo ben preciso dove ci saranno dei moduli abitativi, dove ci saranno delle tendostrutture per la mensa e per i luoghi di ritrovo, si potrà fare un cammino un po' più tranquillo per quello che le dicevo prima, per aiutare a far capire a queste persone cos'è il meglio per loro. Certo. Io credo che comunque questa è una un'esperienza che continuerà nel tempo, non finirà dopo domani. Certo. L'esperienza di Ventimiglia, ci sono altre esperienze. Piuttosto bisognerà fare un discorso politico un po' più serio, un po' più incisivo. Certamente. Anche in occasione del forum Ambrosetti mi pare che sia parlato un po' sui generis rispetto a questo. Dovrebbe che chi parla e chi decide a livello politico si sporchi un po' le mani con queste persone in qualche momento e si renda conto delle fatiche che la comunità italiana sta facendo adesso, delle fatiche che la città vive. Certo. La ringrazio. Grazie Roberto Bernasconi, che è direttore della Caritas di Como, anche per questo racconto molto vivo di una città nella quale ci sono 700 persone impegnate a gestire tutta questa vicenda a livello volontaristico. Adesso noi ci fermiamo, c'è la borsa come sempre, ci ritroviamo subito dopo. Proseguiremo quella che abbiamo chiamato, forse un po' pomposamente, ve ne chiedo scusa, la nostra ricognizione nei comuni colpiti dal terremoto e che però come dire, non fanno parte del cosiddetto cratere, ossia i luoghi nei quali appunto il terremoto ha fatto più vittime e che però vivono parecchi problemi. E poi una piccola vicenda che arriva da Revine, siamo in provincia di Treviso, dove c'è stato un raduno di skinhead e adesso sta facendo il giro della rete, e questa foto che ritrae un gruppo di ragazzini e bambini, saranno una dozzina, 14, che fanno il saluto romano. Parleremo al sindaco di Revine, ci faremo raccontare un po' com'è andato questo raduno di skinhead europei là da loro. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: giornata di riunioni e contatti per il sindaco di Roma e attesa per le decisioni sull'assessore Muraro. Pizzarotti intanto chiede le dimissioni del cosiddetto direttorio. L'operazione contro gli anarchici in tutta Italia, 7 arresti e decine di perquisizioni. Le accuse sono per le bombe sotto casa di Prodi e Cofferati, al quotidiano La Stampa. Terremoto, si è aperta la discussione sul cosiddetto piano Casa Italia, sarà un lavoro decennale, dice Renzi. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci qua, come vi abbiamo detto ieri, abbiamo intenzione di iniziare, abbiamo iniziato ieri e proseguiremo anche nei prossimi giorni, una sorta di ricognizione nelle aree colpite dal sisma. Questa ricognizione passa attraverso il pensiero costante ai comuni più colpiti, Amatrice, Arquata del Tronto, evidentemente, Accumoli, come chiaro, che hanno pagato un tributo alto, soprattutto in termini di vittime, ma passa questa ricognizione anche attraverso i comuni dei quali sostanzialmente non si parla, ma che sono stati colpiti molto duramente dal sisma. E dunque il nostro giro per l'Italia oggi tocca anche Camerino. Siamo in linea con il sindaco Gianluca Pasqui. Sindaco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie per questo spazio che ci state concedendo. Allora, ci dà un quadro della situazione da voi? Come diceva lei, anche noi purtroppo abbiamo subito dei danni anche importanti, anche se il messaggio che da Camerino voglio far giungere all'interno di tutti coloro che ci ascoltano è quello di una città assolutamente sotto controllo. In verità gli edifici che sono stati ben ricostruiti dopo l'evento sismico del 97 hanno retto in maniera molto significativa, in maniera molto importante. La città nuova, cioè i quartieri nuovi, non hanno subito sostanzialmente danni. È chiaro che c'è una parte della città che non ha sopportato in maniera altrettanto significativa questo evento. Sindaco, io le chiederei di darci qualche numero per capire un attimo qual è la situazione. Mi pare che abbiate intorno ai 250 sfollati, a un numero esatto? Purtroppo qualcuno di più. Noi abbiamo su 740 richieste di sopralluogo siamo riusciti ad effettuare il 70% dei controlli, quindi siamo a buon punto, e 300 però sono gli sfollati circa, quindi è chiaro che è un numero importante per la nostra comunità. 180 sono le unità immobiliari che non sono inagibili, tra totali e parziali, e tra queste sia enti pubblici e privati. L'aspetto più importante che voglio sottolineare è l'inagibilità di una scuola, un plesso scolastico che non è caduto ma è stato dichiarato totalmente inagibile. Il messaggio che va portato in queste ore in maniera obbligatoria ed obbligata da parte di noi amministratori è quello di andare a rifare tutti quelli che sono i punti strategici e sensibili, ospedali, scuole. È ora invece che ci siano cose, Che ci siano degli interventi per rimettere a posto tutto questo. Assolutamente. Siamo in chiusura, sindaco, con lei quantomeno. Quello che le vorrei chiedere è che tempi ci sono per queste, che tempi immagina per queste 300 persone per o rientrare nelle loro case o avere un alloggio provvisorio? Guardi, intanto ci saranno il secondo screening che sarà fatto da tecnici della regione. Questo sarà andrà molto più a vedere quelli che sono i danni reali con le tempistiche inerenti a questi danni. Comunque diciamo che di questi 300 sfollati, per quello che mi dicono i miei tecnici, circa la metà potranno rientrare in tempi molto brevi e l'altra metà purtroppo sarà sottoposta ad una tempistica molto più lunga. Speriamo che il governo, come sembra, ci sia vicino, la nostra regione, e quindi che arrivi quel sostegno che tutti aspettiamo e che siamo certi, ecco, che arriverà. Allora io la ringrazio, grazie al sindaco di Camerino per essere stato con noi, e siamo in linea con un altro sindaco che è Michela Coan, sindaco di Revine. Benvenuta, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, sta facendo il giro della rete questa foto che viene dalle vostre zone, dal vostro paese, però non è chiaramente una foto presa da una manifestazione, o sarebbe presa da una manifestazione, perché c'è stato un raduno anche di carattere europeo di skinhead, avviene ogni 5 anni proprio da voi, e c'è questa foto che ritrae una serie di bambini e ragazzini che fanno il saluto romano. Come l'avete presa? Che cosa ne sapete? Guardi, io la foto l'ho vista in internet ieri sera. Altro non so chi l'ha fatta, quando, in che occasione, naturalmente durante la festa, questo lo sappiamo, ma non si sa come. Mi asterrei dal commentare un gruppo di bambini che evidentemente non c'entrano nulla e vanno tutelati. Ovvio. Ecco, sono responsabili dei loro genitori. Mi preme dire una cosa, che l'apologia del fascismo è un reato previsto dalla legge 20 giugno del 1952, numero 645. È altrettanto vero, siamo in democrazia e quindi tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Questa, diciamo, sono le norme. Vi pesa, sì, che ci si svolga questo raduno là? Ma, da voi? Personalmente mi pesa perché diciamo i messaggi che vengono lanciati non sono certamente messaggi con i quali ci riconosciamo. Tuttavia, siccome tra l'altro noi non c'entriamo nulla con l'autorizzazione, perché a noi è arrivata solo una comunicazione e sono le autorità competenti in ordine pubblico, quindi questura e prefettura, che eventualmente intervengono nell'autorizzare. Dico una cosa, costruiamo, non demoliamo. Per me la cosa più importante è che tutti quanti insieme testimoniamo valori di democrazia, di tolleranza, di uguaglianza, di fare del bene, non andare contro. È l'unico modo, secondo me, per contrastare questi fenomeni. Dopodiché, tutto questo, diciamo, sì, clamore, credo che vada, non faccia bene, nel senso che va a rinforzare la loro immagine. Invece io dico l'immagine, rinforziamo l'immagine positiva di questo paese, che ha un festival di cortometraggi internazionale conosciuto in tutto il mondo, Lago Film, sì, Fest, che ha due sacre rappresentazioni conosciute in tutta Italia. Voglio dire, sì, abbiamo ben altro da dare. Ed è anche un posto bellissimo, diciamocelo. La ringrazio, grazie Michela Coan, sindaco di Revine, per essere stata con noi. Traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.